24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il nuovo governo italiano, c'è stato il passaggio di consegne tra Silvio Berlusconi e il nuovo premier Mario Monti. Da Roma Elisabetta Fiorito. Manca solo il voto di fiducia delle Camere, per il resto l'Italia ha un nuovo governo, Mario Monti ha giurato al Quirinale con 16 ministri, 17 incarichi perché Monti terrà l'interim del Ministero dell'Economia. Un governo di soli tecnici, mentre il neo premier smentisce l'entrata di politici in futuro, anche perché adesso dice sentiamo bisogna correre, ma sentiamo il premier mentre scioglie la riserva. È stato interessante e abbastanza impegnativo arrivare a questa formazione del governo, le assicuro che non prendo in considerazione a questo stadio passaggi in corsa, perché di corsa si tratterà. Una lunga giornata, iniziata con la salita al Quirinale alle 11 per sciogliere la riserva e 2 ore, procedura piuttosto anomala, per il colloquio con il Capo dello Stato. Poi la lista con 3 donne, cancelliere agli interni, Severino alle giustizia, Fornero al welfare, allo sviluppo economico e alle infrastrutture, l'ex AD di Banca Intesa, Corrado Passera. Sentiamo cosa ha detto. Certamente tutti i ministeri, e il nostro in particolare, deve occuparsi di crescita sostenibile, di creare posti di lavoro, dimostrare che l'Italia è molto di più di quello che i mercati pensano, hanno pensato in questo periodo. Il primo consiglio dei ministri dell'era Monti a Palazzo Chigi con la consegna della campanella tra Silvio Berlusconi e Monti, in bocca al lupo gli avrebbe detto il cavaliere, che poi è passato davanti in rassegna al picchetto d'onore e ha lasciato Palazzo Chigi. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Insieme ce la faremo, è stato il messaggio del presidente francese Sarkozy al neo premier italiano Monti, anche dall'Unione Europea, segnali positivi. Le autorità comunitarie hanno accolto con piacere la nomina di un nuovo governo in Italia. La presenza alla guida dell'esecutivo di Mario Monti, un ex commissario europeo, è garanzia di serietà e di impegno. Un portavoce della Commissione ha però messo l'accento sul programma del nuovo governo, chiamato a mettere in pratica un piano che deve prevedere al tempo stesso risanamento dei conti pubblici e rilancio dell'economia. La crisi debitoria e i rischi di contagio hanno indotto i governi dell'Unione e la Commissione a monitorare da vicino la politica economica italiana. Il monitoraggio continuerà anche con il cambio di governo a Roma. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Anche sui siti online europei e internazionali la notizia del nuovo governo italiano tiene banco. Il nuovo governo italiano irrompe in pochi istanti come una breaking news sui principali siti di informazione mondiali. La notizia appare nella fascia dedicata alle urgentissime subito su molti siti, mentre il Financial Times ha seguito l'annuncio della lista dei ministri in diretta live e definisce Monti come un super ministro dalla business elite italiana. Il sito della BBC ora pone 4 questioni, un'analisi globale delle Eurozona di fronte alla crisi sistemica, un ritratto di Monti che cercherà di rompere lo stampo di Berlusconi e 2 domande. Cosa possono ottenere i tecnocrati? Cosa attende ora Berlusconi? Le Monde adotta un taglio più basso. Il titolo è minuscolo, ma c'è una fotogallery dei principali titolari dei dicasteri. Le Figaro scrive professore contro cavaliere e titola con Monti gli italiani fanno la scommessa della virtù. E il Paese lascia la notizia in apertura e la corredda del commento dai toni anti-berlusconiani intitolato in italiano manca finezza. Il Mundo invece promuove un sondaggio online riferito non solo all'Italia, anzi, credete che un governo senza politici possa funzionare meglio? Mentre scriviamo questo pezzo, la percentuale di sì arriva al 93%. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le borse europee contrastate ieri, Parigi ha guadagnato lo 0,52%, Francoforte ha chiuso in ribasso dello 0,33%, Londra ha perso lo 0,15%. Sui listini pesa l'incertezza dopo le dichiarazioni all'Europarlamento del Presidente della Commissione europea Barroso, che ha definito sistemica la crisi attuale, per affrontare la quale è necessario prendere ulteriori misure. Chiusura positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari scommette sul governo Monti, così sul finale il FTSE MIB è salito dello 0,79%. Lo spread però è rimasto su livelli di guardia al di sopra dei 500 punti. Intesa San Paolo ha guadagnato lo 0,6% nel giorno in cui l'amministratore delegato Corrado Passera ha rassegnato le dimissioni per rivestire il ruolo di ministro dello sviluppo economico e alle infrastrutture. Tra le azioni bancarie sono state premiate per i conti trimestrali le UBI più 5,1%, mentre sono scivolate del 13% le BPM negli ultimi giorni dell'aumento di capitale da 800 milioni che si chiuderà venerdì. Finmeccanica, dopo un tentativo di recupero, ha ripreso a scivolare lasciando sul parterre il 3,5%. Sono andate male anche le fondiarie Asai, meno 4,5%, risentendo del taglio del giudizio da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's. E invece è salita dell'1,5% Luxottica, festeggiando l'annuncio che a partire dal 2013 realizzerà gli occhiali di Giorgio Armani al posto di Safilo, le cui quotazioni comunque, dopo una sbandata iniziale, sono sbalzate dell'11%, visto che la notizia era già stata scontata dalla borsa. Infine Fiat è salita dell'1% a dispetto dei pessimi dati sulle immatricolazioni europee. Il gruppo torinese a ottobre ha accusato un calo delle vendite nel vecchio continente del 10,2% contro quello generale dell'1,8%. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Restano tensioni sui debiti pubblici che ora, oltre Italia e Spagna, coinvolgono altri paesi europei, Belgio, Olanda, Austria e perfino la Francia. I rendimenti dei BTP decennali risalgono attorno alla soglia allarmante del 7%. Lo spread BTP Bund ha a sua volta oscillato fino a un minimo di 490 punti, risalendo poi a 518 punti base. E cresce la tensione tra Berlino e Londra, poche ore dall'incontro, domani proprio a Berlino, tra il cancelliere Angela Merkel e il premier britannico David Cameron. Uno stretto alleato del cancelliere ha infatti accusato il Regno Unito di egoismo verso l'Unione Europea per la sua contrarietà alla tassa europea sulle transazioni finanziarie, sostenuta da Francia e Germania. Non è accettabile, ha detto il leader parlamentare della CDU, che il Regno Unito difenda solo i propri interessi piuttosto che quelli dell'intera Unione. Forze militari straniere, Stati Uniti e Francia in prima linea, stanno affiancando l'esercito keniano nell'offensiva lanciata in Somalia contro il gruppo militante di Al-Shabaab, legato ad Al-Qaeda. La notizia è stata confermata da fonti militari di Nairobi. Intanto il commissario europeo alla cooperazione Anders Piebalgs, intervistato da Gigi Donelli, rilancia il sostegno al contingente africano AMISOM e lo sforzo finanziario per il sostegno umanitario per i profughi somali in territorio keniota e per la pacificazione del Corno d'Africa. La situazione nel Corno d'Africa resta estremamente complessa. L'Unione Europea ha approvato lunedì scorso un progetto quadro per la regione che affronta i temi della rappresentatività politica, quelli della sicurezza e naturalmente quelli dell'emergenza umanitaria e dello sviluppo economico. La buona notizia è che il movimento armato di Al-Shabaab, che in Somalia rappresenta la principale causa di insicurezza, vede progressivamente ridurre la presa sia nei confronti della popolazione civile, sia per quello che riguarda l'operazione delle forze dell'AMISOM, la forza di pace africana presente con 10.000 uomini, a maggioranza ugandesi e burundesi. Io credo che si vada profilando, per la prima volta in 20 anni, la possibilità di accrescere realmente la sicurezza e la stabilità regionale. Ci sono poi le parti della Somalia, e mi riferisco al Puntland e al Somaliland, dove le condizioni di sicurezza hanno già fatto importanti passi in avanti negli ultimi anni. Tutto questo contribuisce a definire un quadro di maggiore speranza. Noi continueremo a lavorare per assicurare la sicurezza alimentare della popolazione, ancora a rischio per l'instabilità generale. E continueremo dunque il lavoro sui campi di raccolta. Ma finalmente possiamo cominciare a lavorare anche perché le persone possano lasciare i campi profughi, ritornando alle loro case, e possano dunque assicurare da soli il proprio mantenimento. Io credo che a fronte di tutte le complessità che pure sono presenti, adesso c'è la possibilità che le istituzioni di transizione nel paese possano rafforzarsi e puntare a diventare delle strutture stabili per il governo del territorio. Insomma, ci sono le condizioni su cui lavorare e noi anche per questo non dobbiamo perdere fiducia nell'azione internazionale. Voglio anche aggiungere che la battaglia alla pirateria che ha provocato e continua ancora a provocare gravi danni e lutti è una battaglia che si deve vincere a terra e non certo nel mare. Il futuro incerto della protesta degli indignati, sgomberati a New York e non solo. Allontanati ieri da Zuccotti Park, campo base di Occupy Wall Street, i manifestanti non si sono dati per vinti, nonostante sia stato respinto il loro ricorso contro lo sgombero. Nella notte, infatti, in centinaia sono tornati nel parco in cui un giudice della Corte Suprema di New York ha stabilito che è lecito protestare, ma non accamparsi. Cosa faranno nelle prossime ore? Si vedrà. I loro colleghi di Oakland, California, ad esempio, sono già stati sgomberati due volte, ma sono sempre tornati, armati di tende e generatori. Per ora, comunque, festeggiano il sindaco di New York, Bloomberg, e i commercianti della zona. Per il movimento, sceso in campo due mesi fa, sono ore difficili. Un campo di indignati è stato smantellato ieri sera a Parigi e le autorità londinesi fanno sapere di attendere solo il via libera del tribunale per fare lo stesso. Ed è finita anche la breve avventura dell'occupazione dell'ex cinema arcobaleno di Bologna, dove si erano riuniti gli indignati italiani sotto la sigla Draghi Ribelli. La polizia li ha allontanati stamattina. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.